24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino, quella di Bersani, cioè. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Intanto, cari ascoltatori, il Corriere fa sapere che Matteo Renzi da ieri è a Roma. Puntini di sospensione. Buongiorno e benvenuti, cari italiani, ben svegliati. Questo è 24 mattino, oggi c'è Paolo Corleone in regia. Il nostro alpino l'abbiamo, penso, buttato a mare o in montagna. C'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, che sta cercando, credo, di svegliare Mario Dinolfi. Beh, si è svegliato, è sempre un momento bello. Intanto apriamo il nostro Parlamento, dai, che ci sono tante cose da dire. Parlamento, forza gente, ecco. Accorrete al Parlamento, abbiamo barman generosi. Sono i Two Fingers che ci accompagnano con la loro Parlamento. Allora, Mario Dinolfi si è svegliato, credo, al primo squillo stavolta. Mario, buongiorno. Buongiorno. Eccolo, buongiorno. Saluto anche Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno. Invece sentite che voce vispa, che tra poco è in onda già su Canale 5. È al trucco e parrucco più o meno. Sì. Allora, per il secondo giorno voglio iniziare con il maestro. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti? Ma insomma, aveva già scritto tutto, Adinolfi aveva già scritto tutto in Resaughe, e l'aveva già detto. Ma aveva scritto Povera Patria, ricordiamo. Ma sì, Povera Patria, ma che scandalo c'è? Sì, ha usato questo termine volgare, un po' proprio l'ha buttato lì. Ma si riferiva chiaramente a un certo tipo di vedere la politica, di vendersi, di svendersi. Ma adesso Battiato, tutti contro Battiato. Vede che Crocetta doveva accreditare a palazzo, diciamo così, probabilmente con questo mossa ha dimostrato di essere organico per certi versi, e ha forse anche sistemato un problema, perché non credo che Battiato fosse un fulmine di guerra nel lavoro. Ma sì, ma però. Questo sì, ma scusate, ha cacciato anche Zichichi, già che c'era. Oggi Zichichi fa due straordinarie interviste al Corriere Repubblica. Il Corriere dice, è Del Debbio, dice: ma che credeva Crocetta, che io lasciassi il mio lavoro da scienziato? Io sto cercando il supermondo, l'universo subnucleare. Capisci? Mi rompete i maroni. No, ma questi lo fanno, li pigliano perché gli fanno immagine, è la solita storia, la conoscono tutti, no? Sì, li prendono perché sono buoni da un punto di vista dell'immagine. Poi dopo però è gente che naturalmente continua, e sono quelli che sono, quindi voglio dire, mi ricordo quando, non so chi era quello là, non Gaber, come si chiamava, chi? Che andò col PC, il cantante genovese, Paoli, no? Gino Paoli, che è stato che facesse le commissioni, cioè. Sì, però voglio dire, ma adesso questa storia di Battiato, che ne pensa? Mi ha fatto bene a cacciarlo? È stato molto grezzo nel suo modo di esprimersi, no? Poi è stato grezzo, e poi soprattutto devi sapere che quando vai in politica, siccome quello che dici in positivo conta quasi nulla, così ti aspettano tutti al varco su una scivolatina, e la scivolatina in politica non la puoi fare perché poi ti ammazzi. Tutti sanno che non è giusto, ma lo fanno perché lo fanno, è un modo per passare la giornata. Mi sa che, come ha detto Adinolfi, doveva accreditarsi. Infatti subito Piero Grasso, presidente del Senato, ha detto: verrò a Palermo settimana prossima, Adinolfi, verrò a Palermo settimana prossima. dopo che ha cacciato, tu, come dire, pulisci un po', Crocetta, ripuliscimi un po' la strada, no? Che così possa arrivare a Palermo. Vabbè, succedono queste cose, no? Allora, oggi, se non avete già visto i giornali, ragazzi, oggi i giornali sono di una depressione incredibile, c'è solo un delirio di Adriano Celentano che mi salva su Repubblica, che veramente poi leggerò. E, no, la questione è questa: tutti raccontano di Bersani disperato, sordo, Bersani come Fantozzi, Bersani come Bersani non gliela fa, Bersani di qui, Bersani di là, cioè di Adinolfi, le speranze di Bersani sono nulle, meno di nulle. Da un po' di tempo che forse seguirai sulle cose che scrivo, insomma, ho sempre detto che questo era un tentativo senza senso. E mi sono anche meravigliato che fosse stato dato l'incarico a Bersani, perché non aveva alcuna possibilità di condurlo in porto, e se anche ci riuscisse, ci riuscirebbe avendo una condizione di precarietà assoluta, che fra l'altro sarebbe assolutamente dannosa per il paese. Quindi non so perché si stia perdendo tanto tempo, perché io ricordo è che da fine dicembre l'Italia non è governata, cioè dal giorno delle dimissioni di Monti sono passati ormai più di 4 mesi, insomma, quindi qui comincia a essere problematico, vista la condizione che viviamo intorno a noi. Vabbè, ma c'è un problema. Adesso abbiamo perso in carica per gli affari correnti, però non è che può fare nulla, insomma, invece in questo paese c'è proprio bisogno di fare molto. Governo Monti, che tra l'altro lo sentiamo ieri parlando dei Marò. Monti, sentite come cosa ha detto, no? Questo governo, che lo dico nel modo più rispettoso, non vede l'ora di venire sollevato dall'incarico. Brusio dell'aula. Nel novembre 2011 non ha sollecitato, come è noto a tutti. È stato il mondo politico che ha ritenuto troppo complicata la situazione per qua del debito, cioè, si è rimesso il Loden, ha fatto quello che dire, ma che è qua, mi avete chiamato voi, non vedo l'ora di essere sollevato. Ma no, ma non se lo può permettere sto signore qua di dire queste robe. E perché? E perché? Allora, si butta fuori lui, Crocetta deve buttare fuori Monti, no? Crocetta dimissiona Monti. Ma no? Sì, ma voglio, lo dico scherzando, ma lo dico, ma come si fa? Ma che modo di fare è? Oh, ma chi si crede di essere? Ma siamo matti? Dice, c'è uno, e sollevati da solo, no? Che problema c'è? Torna lì alla Bocconi, dov'era? Non so io. Alla Bocconi, con tutto rispetto, sì, appunto. Ma che modo, non lo so, io francamente, guarda, insomma, ogni tanto vengo qui da voi, io non sono quelli che si indigna, insomma, però francamente ci sei per la prima volta, no? Si indigna del debito, attenzione, si sta per indignare alle 6:38 minuti, cioè di nulla, però voglio dire, ma insomma si diana controllata sto professore qua. E qua sentiamo Mario Adinolfi che Monti l'ha anche sostenuto ultimamente, diceva era Monti, l'ho sempre votato in Parlamento con i suoi provvedimenti, sì, però questa non vedo l'ora di andarmene. Va, cioè, voglio dire, uno viene istintivo a dire vattene, cioè nel senso che chi ma non lo può fare, tecnicamente non lo può fare, cioè questa è la verità, cioè, non ci sono le condizioni neanche, diciamo così, minime perché lui possa, cioè lui ovviamente ha una prospettiva in questo momento politica molto difficile, quindi si è giocato molto, sono mica problemi degli italiani, no? Ma sì, il modo è sempre un po' come dire, no, Adinolfi, sempre un po' appunto con l'Oden, dai, non vedo l'ora, questo governo che detto per inciso non vede l'ora di essere sollevato, cioè come se fosse lì a fare una roba da disgraziato. Monti sia nettamente superiore alla classe politica media italiana e quindi lui lo avverte questo, e lo dice, ma che superiore, ma del debito effettivamente non è, cioè, adesso rispetto alla classe politica normale, sì, ma no, cioè, lì, non è che questo è un gigante, dai, su, ragazzi, ma è diverso, non ha stoffa, è lo statista, no, lo sanno tutti, è un professore, uno in gamba, c'ha una certa autorevolezza in Europa perché ha svolto bene funzioni funzionariali. Sì, ma del debito, diciamo, ma non crede che un po' sentirsi, per Monti, sentirsi mischiato un po' con questa classe politica? Lui appunto che è un professore. Si è anche presentato alle politiche, più mischiato di così, non mica mandato il medico, almeno non c'abbia un medico che gli ha prescritto, si vada alle elezioni, c'è andato da solo, no? Sì, questo è vero, questo è vero. No, questo è vero. Vabbè, comunque sì, non è stata un'uscita molto, molto felice. Detto questo, io non lo so cosa avete provato voi, ma io ieri, quando ho visto queste consultazioni streaming con Bersani, che sembrava un colloquio di lavoro, e doveva esporre a questi del Movimento 5 Stelle le sue linee, tutto visto, dato. Ma la politica è questa, Dinolfi, cioè che dobbiamo vedere tutto in streaming, dobbiamo vedere, ci mancava la birretta, qui non è Ballarò, questo è Ballarò, questa, ma che no, è? A me non è dispiaciuto, è una bella novità, insomma. Ma sì, ma non è che tutte le novità sono per forza delle cose io sensazionali. Io trovo positivo, insomma, vedere una trattativa, diciamo così, filmata, sì, e vedere anche Bersani schiantarsi sul muro, un pochino, diciamo, non di divertimento me l'ha dato. Ah, insomma, vabbè, c'era il gusto che... così, c'era il gusto malefico. Il filo cioè... di interesse me lo dava, insomma. Ecco, a un certo punto Bersani ha praticamente ha fatto Crozza. Sentite Bersani che parla dell'acqua, no? Sentite, come Crozza ha parlato. Ho sentito i commenti di Grillo, cioè pensare di fermare l'intelligenza con gli insulti è come pensare di fermare l'acqua con le mani. Del debito, ragazzi, siamo mica qui a fermare l'acqua con le mani, no? Perché che chiede se sollevato e l'altro fa le metafore. Vabbè, avanti così. No, Renzi a Roma, vero? Renzi a Roma, Renzi a Roma, Renzi a Roma, Dinolfi, Renzi a Roma, tu che eri renziano, Renzi a Roma, puntini di sospensione. Renzi. Bene, ma non può arrivare a Palazzo Chigi con una manovra di palazzo, questo deve essere chiaro. Basta che prenda un taxi, la sua difficoltà. Tra l'altro oggi il Fatto Quotidiano, attenzione, iniziano i veleni, il Fatto Quotidiano con Marco Lillo fa una pagina dicendo questo: Renzi, quando si candidò a presidente della provincia di Firenze, quindi una vita fa, 11 giorni prima fu assunto dall'azienda di famiglia come dirigente, quindi da 9 anni gli paghiamo i contributi della pensione, sono a carico della collettività. Questo è un bel sassolino, un bel velenuccio che è sparso dal... Da chi fu assunto? Dall'azienda di famiglia, cioè suo padre ha un'azienda e quindi lui è dirigente dell'azienda, c'è tutto ricostruito da Marco Lillo, cioè prima le sorelle, poi lui, socio, cioè, si è fatto assumere dall'azienda di famiglia, scrive il Fatto, è dirigente in aspettativa e quindi i contributi della pensione, siccome da quando è in politica, glieli paga la collettività. Che se è vero, è tutto dimostrato, non è una bella, un bel biglietto da visita per Matteo Renzi, Non... Sì, bisogna vedere bene com'è, chi gli paga. La spiego io com'è. La spiega Dinolfi, la spiega Dinolfi. È molto facile, c'è una legge che prevede che quando sei eletto a qualsiasi carica, i contributi tu hai un mestiere, i contributi siano a carico della collettività. Ci contributi, ho capito, una cosa pagati dagli enti. Ho capito, ma sembra una cosa positiva se no, tutto no, così. Niente, una cosa pessima. Qual è il meccanismo? Così, cioè, non è bello. Per esempio, Nicola Zingaretti, un giorno prima di essere eletto presidente della provincia, è stato assunto dal Partito Democratico sostanzialmente, in maniera che poi i contributi fossero pagati per tutto il periodo in cui fosse eletto, insomma. Quindi è un meccanismo in cui i dirigenti politici però male si fregano gli anni contributi. Ah, vabbè, tutto per la legge, è legale, molto immorale, diciamo. Quindi Matteo Renzi come la spiegherà questa cosa? Se la spiegherà a Dinolfi? Non la spiegherà, perché non la spiegherà? C'è poco da spiegare. Però non è una cosa bella. È andata così, non c'è niente da spiegare. Vabbè. 24 mattino. Buongiorno Alessandro, io sono Giovanna e ti sto telefonando da Genova. Ho 88 anni, figlia di un socialista all'epoca del fascismo, ma questi sono peggio degli altri. Parlano e continuano a parlare, la canzone di Mina, parole. Io ho 88 anni e ho vergogna all'estero per quel poco di buono e di battiato che ci dà delle troie. Io non ne posso più, io amo gli italiani, amo l'Italia. Caro Mila, sono Enzo da Latina, mi voglio sfogare un pochino con voi. Questi politici abbuffatori che non finiscono mai, culo allardati, cariche di colesterolo, ma non finiscono mai da rubare, hanno rotto le palle a tutti, sono arrabbiatissimo. Niente, volevo sapere, ma quando se ne deve andare il nonno napolitano? Sta facendo solo casini. Non lo so, ma bisogna aspettare molto ancora. Lo volevo sapere, volevo un attimino regolare. Buongiorno. Io vorrei sapere quando l'assessore al turismo della regione Sicilia, Franco Battiato, ha previsto il suo viaggio in Iran per presiedere il convegno sull'oppio e i suoi effetti, visto che ne è un grande stimatore. Grazie. Stavo pensando di chiedere la cittadinanza indiana. Secondo te me la danno? Sicuramente vale molto di più un passaporto indiano e si è molto più tutelati essere cittadini indiani che italiani in questo momento. Che paese di merda! L'Italia è il paese delle comiche. Battiato ha solo detto la verità, è che siamo un paese di perbenisti e ipocriti. Milan, ascolta, che se ci portano di nuovo alle elezioni, io li appendo come Mussolini, capito? Che sia i 5 Stelle, i PD, il PDL, li appendo, ciao. Vabbè, speriamo proprio di no, che non si vada alle elezioni, speriamo soprattutto che non ci sia bisogno di appendere nessuno. Siamo con Paolo Del Debbio, che poi il lunedì fa quinta colonna, sulle 3-4, non l'ho detto, a che ora inizia? Alle 21, prima serata, 21 e 15, vabbè, classica prima serata. Mario Di Nolfi invece su Radio Yes oggi che dirà? Alle 8, credo. Alle 8 oggi è il solito menù frullatore d'attesa, certo, quando ancora certo. Non è la notizia che per tanti tacchini, passerotti, vabbè. Allora vi voglio far ascoltare questo audio, non è un pochino disturbato, ma ci si capisce in realtà, ma è così, è da Telenord, una TV ligure, perché il consigliere regionale Aldo Siri, uno di quelli messi nel frullatore delle accuse per peculato, uno che ha preso praticamente 2000 euro rotti della regione per fare un'iniziativa sotto Natale, ha comprato tutta una serie di panettoni, li ha dati a bisognose, associazioni che fanno carità, la Caritas eccetera, e per questo è indagato per peculato. E sentite, beh, io non lo so, cioè uno non è che deve credere per forza a... però io quando l'ho visto l'ho sentito piangere così, mi ha colpito, no? Convocato per il 16 di aprile, mi accompagnerà un avvocato carissimo che mi conosce e che mi ha già espresso la propria solidarietà. Mi fa anche piacere che ricevo centinaia di messaggi di persone che dicono: Aldo, sappiamo quello che sei e non dubitiamo della tua onestà. Mi ha ricevuto tante tantissime e questo mi aiuta più che altro per la mia famiglia, che mi dispiace. E poi vabbè, se ne va così. Vabbè, l'audio era un po' disturbato. Io adesso non so, Paolo Del Debbio, non è che dobbiamo credere per forza, eccetera, ma non è che c'è il sospetto che in questa guerra, in questa ricerca, no, sempre a voler inchiodare il politico di turno, qua buttiamo un po' nel frullatore tutto, Il rischio c'è, Milan, si sa, insomma, no, se tu fai in un momento così di caccia all'untore, insomma, poi dopo ci casca anche qualcuno che non c'ha né colpa né peccato, no? Voglio dire, questo può aver commesso un'ingenuità, perché non puoi prendere soldi pubblici e comprarci panettoni anche se sono per i poveracci. Sì, no? Ma lui racconta, dice: io addirittura prendevo i figli, io nella mia vita sono sempre stato cattolico. Non c'è motivo di dubitare di questo assessore, che siano lacrime vere, che lui sia uno che l'ha fatto per finalità, eccetera. Solo che primo, non puoi prendere quei soldi lì, è facile che ti pare, anche se è una cosa ben buonissima. E secondo, siamo in un momento così, ci vuole della prudenza. Anche quando purtroppo è così. Io ci credo qualche alla sicurezza. No, ma è chiaro, anche perché se guadagna 10.000 euro al mese, uno dice 2.000 euro, potrà farlo motivo, come gesto. Sì, un po' c'è un motivo di non credere che lui sia... perché... siamo in questo mondo qui, bisogna stare attenti. Insomma, bisogna stare attenti. Adinolfi. Adinolfi che su queste cose un po' dice c'è il rischio della demagogia, c'è della caccia alle streghe. La caccia alle streghe c'è, ed è evidentissimo ormai, però bisogna ricordarci da cosa partiamo, cioè partiamo da Fiorito, partiamo esperienze che ovviamente hanno segnato gli italiani, e non sono stati comprati panettoni. Siete terribili, manco davanti alle lacrime proprio vi commuovete, proprio siete dei cinici spietati, no? Ripeto, è una classe politica, diciamo così, che vista da vicino mette paura. Non saranno due lacrimucce del consigliere Siri della Liguria a commuovere o a piegare curare o a pietire Mario Adinolfi, Paolo Del Nebbio. Allora, invece, io non lo so. Io non lo so voi cosa abbiate provato, se avete visto questa manifestazione dei poliziotti del COISP. Ma dai, sono andati davanti all'ufficio comunale dove lavora la mamma di Federico Aldrovandi. Per manifestare per solidarietà nei confronti dei poliziotti che sono in carcere, sono stati condannati. C'è la madre. Ma infatti, ma c'è la madre che, pensate, la madre che è dovuta scendere esponendo la foto del figlio morto all'obitorio, come per dire questo è il figlio mio che è stato ucciso in questa... Ma cioè, ma ragazzi, ma infatti oggi il ministro Cancellieri in una serie di interviste dice non rappresentano la polizia e vedrò se ci sono estremi per fortuna anche De Gennaro ha detto qualcosa. Sì, se ci sono estremi per in qualche modo punirli. È che hanno fortuna questi qui, che non c'è fortuna, cioè la sfortuna per tutti. Se c'era Manganelli se ne accorgevano. No, ma veramente, non so, Adinolfi, tu che hai provato. Io, guarda, il titolo più generoso è Vergogna, quello che trovo sui giornali. Io sono stato forse dai primi a scrivere il caso di Federico e mi ricordo la reazione anche degli altri dirigenti della polizia. Ricevetti telefonate molto pesanti, c'era un clima pesantissimo intorno a questa vicenda. Sì. E quella foto esposta, sapete perché è così importante e drammatica, oltre a quell'immagine che... Senza quella foto il caso di Federico Aldrovandi non sarebbe mai diventato quello che farò fino abbiamo. Ma io vedere la madre, cioè la madre chissà quante volte l'avrà vista quella foto, ma costretta, perché costretta se ha visto questa manifestazione sotto l'ufficio comunale ancora dove lavora, una volta è dovuta scendere foto a fare vedere a raccontare tutto. Cioè, ancora ragazzi, una volta è quella foto a raccontare. Sì, ma vedere una madre che tiene una gigantografia del figlio ucciso in maniera brutale con tutto il sangue. Che dobbiamo fare ancora questa donna, voglio dire, che ha perso un figlio così, cioè dobbiamo costringerla a fare così. No, guarda, massima solidarietà a Patrizia Moretti, che abbiamo avuto ospite varie volte, davvero vergogna. Io ho provato solo vergogna. Che dire, vi faccio sentire anche questa per tornare alla politica, di Vito Crimi del Movimento 5 Stelle. Sentite cosa dice dopo le consultazioni. Noi potremmo mettere in campo, a differenza degli altri partiti, una cosa che gli altri non hanno, che è la credibilità. Noi abbiamo la credibilità che in questi tre anni, quelli che ovunque il Movimento 5 Stelle ha avuto un incarico, che sia di consigliere comunale, consigliere regionale, che sia di sindaco, ha fatto ciò che ha detto. E ha detto ciò che ha fatto. Capito Del Debbio? Noi siamo l'inceneritore a Parma. Vabbè, l'inceneritore che Pizzarotti anche qui ai nostri microfoni ha detto abbiamo fatto tutto il possibile, non potevamo fermarlo. Sono... Capito, ma lo sapeva prima, no? Uno non va e dice perché quei documenti c'erano prima. Sì, però è un po' è vero che almeno per ora non sono sporcati da quello che... Milan, se tu fai il puro e dici io non mangerò mai carne, c'è uno più puro che c'è uno più puro che ti è puro. Io sono uno, insomma, così normale come te, a me va bene anche che tu sbagli. Dai, capito? Ditecelo in 10 secondi a chi andrà l'incarico a Premier. Io ho sempre detto Fabrizio Barca da giorni. Mario Adinolfi, un nome? Enrico Letta. Enrico Letta. Paolo Del Debbio? A Mario Adinolfi. La risolverei, giuro che la risolverei. Affondiamo come schettino nel giro di 3 giorni. Però sai che memorabili 3 giorni sarebbero, va bene. Esatto. Intanto avremo la prima intervista in esclusiva, se no mi incazzo con il neo premio. Anch'io, dopo quello che hai detto, niente va bene. Viene anche da me. Sì, però, sì, poi va anche da Del Debbio. Va bene. Ci fermiamo qui. Grazie, Paolo Del Debbio, Mario Adinolfi. È tempo di giornale radio. Par Milan, Radio 24, questa breve poesia, stranzeme culet, nama bote, e così sia. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui a leggere il giornale alle 7:21 minuti. Di cosa parleremo oggi? Vi ricordo, con i nostri ospiti. Beh, mentre la politica cerca di capire davvero se questa svolta ci sarà oppure no, anche se dai giornali si ipotizza

reale che si confronta con le difficoltà concrete, e lo facciamo attraverso il racconto di due facce della stessa medaglia, quella di un imprenditore. È Davide Cervellin che saluto, buongiorno e benvenuto Cervellin. Buongiorno dottor Milan e gli ascoltatori. Allora, Cervellin è presidente della Tiflo System, è un'azienda che da anni produce ausili per disabili, per tutte le tecnologie, gli strumenti per gli invalidi. E l'altra faccia della medaglia è quella di un generale dei carabinieri in pensione, Maurizio Scoppa. Generale, buongiorno. Buongiorno. È un generale che è stato chiamato e fino a luglio dell'anno scorso ha guidato come commissario straordinario la ASL Napoli 1, una delle ASL, forse l'ASL più grande, comunque una di quelle che ha più problematiche di questo tipo, generale, lei mi conferma? Sicuramente sì, sia per dimensioni che per indebitamento. Per indebitamento, qualcosa poi ce lo dirà attraverso i numeri. Ha dovuto far fronte a una situazione vista dalla parte dello Stato. Allora, intanto Cervellin ci spiega in poche parole cosa vuol dire per un imprenditore lavorare per lo Stato, non ricevere soldi, sia dal punto di vista pratico, questo lo possiamo capire, ma anche dal punto di vista dello spirito imprenditoriale. Cosa va a scalfire questa situazione paradossale? Guardi, io mi sento veramente un po' pazzo, no? Perché quando 25 anni fa ho scelto di vivere per dare un contributo allo sviluppo del paese, all'emancipazione e all'autonomia delle persone disabili, non credevo poi di trovarmi in una situazione come questa. Potevo vivere di pensione, perché io sono cieco, ho scelto di rinunciare, di vivere da parassita, da chi riceveva provvedimenti dallo Stato, per realizzare lavoro e pagare contributi, quindi creare ricchezza per lo Stato. Ecco, mi trovo in una situazione che è paradossale e direi anche anticostituzionale, nel senso che la nostra Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, e invece in questo momento si sta distruggendo in maniera sistematica l'idea stessa di lavoro. Noi forniamo, cioè produciamo e forniamo tecnologie alle persone disabili per la loro autonomia, per la loro vita, i comunicatori per quelli che non parlano, i sistemi di lettura per quelli che non possono leggere, i sistemi per usare il computer, per lavorare, eccetera. Ecco, li forniamo attraverso, per una legge del 1992, il famoso nomenclatore tariffario, che sì, poi è stato parzialmente rinnovato nel 99 e mai più riformato, forniamo attraverso il sistema sanitario nazionale queste tecnologie. Quindi ovviamente molto con le ASL, con gli ospedali, con lo Stato. Noi lavoriamo molto con le ASL. Cosa succede? Succede che le ASL provvedono, a fronte di una prescrizione del medico, di una autorizzazione amministrativa, quindi c'è un passaggio amministrativo, no, in cui secondo me dovrebbero anche verificare se i soldi ci sono o meno, quindi provvedono a fare un ordine, cioè a ordinare lo strumento, certo, che serve. E che poi quando pagano? Quando pagano? E sì, fatto questo, e noi fatta la consegna che il nomenclatore prevede che dovrebbe essere pagata la consegna, il prodotto, la tecnologia, massimo entro 90 giorni dalla consegna del collaudo, e poi si dimenticano di pagare. Io mi sono trovato 2 anni fa ad avere un credito con la sola Regione Lazio, sì, di oltre 300.000 euro. Molti di questi soldi riguardavano forniture di 6-7 anni antecedenti. 6-7 anni prima, insomma, 300.000 euro. Questo è un emblema con la Regione Lazio. Ma La stessa cosa succede con molte altre ASL, sì, tant'è vero che noi adesso abbiamo dovuto, chiaramente, per sopravvivere, ristrutturare la modalità di fornitura, cioè cedendo a dei rivenditori locali le forniture, perché altrimenti noi già abbiamo dovuto ridurre il personale, okay? Oppure hai cominciare a pensare al mercato estero. Io certo, questa settimana questo è un senso proprio di una sconfitta. Cioè, uno dice: io vorrei lavorare con lo Stato, voglio lavorare con lo Stato, ha imboccato questa strada tanti anni fa, ma si trova in una situazione. Perché ieri ho ricevuto, sì, il famoso accordo di pagamento della Regione Lazio. Sono 40 pagine, io credo proprio una cosa demenziale, cioè lo Stato è arrivato ormai al degrado totale. In queste 40 pagine ci sono scritte le modalità che la Regione Lazio adotta per le sue ASL per i pagamenti. Peccato che il primo capoverso reciti che la Regione Lazio non ha nessuna responsabilità, cioè mi fa sottoscrivere, cioè sottoscrive solo senza il responsabilità, senza responsabilità, cioè la premessa è di quelle disastrose. Tra l'altro tutti i contratti li sottoscrivono i due, no? Sì. Invece qui lo sottoscrive solo uno, tra l'altro quello che offre servizi, che offre beni, quello che ci mette il lavoro. Dall'altra parte non si sottoscrive niente. Ma tra poco ci racconterà anche tra poco ci racconterà anche alcuni di questi passaggi. Io vorrei chiedere al generale Scoppa, intanto generale, quando sono stati scritti gli articoli sulla vicenda tutti si sono chiesti ma com'è possibile e perché si sia dovuti ricorrere a un generale dei carabinieri per cercare di mettere ordine in una ASL pubblica. Lei si è dato una risposta? Sì, io ho sempre detto fin dal primo momento che non serviva e non è servito un ufficiale dei carabinieri nel senso di qualcuno che facesse indagini di polizia giudiziaria in situazioni come queste, anche se talora ce ne sarebbe stato bisogno, ma un buon conoscitore delle regole del funzionamento della pubblica amministrazione, perché io ritengo che in questo marasma che ha colpito tutta la pubblica amministrazione sia proprio la mancanza di conoscenza e soprattutto di rispetto delle regole. Senta, le chiedo questo, visto dal punto di vista dello Stato, che effetto fa vedere imprenditori, e ci dica anche qualche cifra che lei ha trovato alla ASL 1 di Napoli, quando ha trovato imprenditori che reclamano crediti di chissà quanti anni anche pregressi? È una situazione veramente drammatica, perché il mondo imprenditoriale naturalmente è costituito da soggetti diversi, dalle grandi aziende fornitrici, produttrici e fornitrici, ai piccoli fornitori, e soprattutto questi io ne ho incontrati tantissimi, perché mi sono fatto carico personalmente di cercare di porre rimedio a questa situazione, e ho trovato delle situazioni veramente drammatiche, famiglie ridotte improvvisamente all'indigenza, famiglie di imprenditori, oltre che posti di lavoro persi. Poi ci sono anche le aziende più grandi che naturalmente sono costrette a ridurre anche loro la forza lavoro. Il rimedio possibile anche in una situazione di deficit era quello innanzitutto di mettere ordine nelle carte contabili e quantificare il debito e cominciare a dividere il debito pregresso dal debito corrente, cercando di pagare più celermente possibile, abbreviando i termini del debito corrente, assicurandosi la copertura, e poi gradualmente ridurre anche il debito pregresso. Ecco, ma generale, quanto è dovuto, ci dica anche qualche cifra, cioè qual è lei quando è arrivato, quanto c'era di debito pregresso da smaltire? Guardi, di debito pregresso c'erano oltre 2 milioni di euro di debito pregresso, e un debito corrente che faceva registrare ritardi di quasi 2 anni nei pagamenti. 2 anni, con fatture alcune addirittura di 5, 6, 7 anni, cioè fatture di questo tipo, di questo ritardo. Sì, fatture tra l'altro mantenute nella maniera più caotica, per cui spesso i fornitori erano costretti a riprodurle perché non si trovavano, e puoi immaginare esercizi finanziari di 6-7 anni precedenti mantenuti in una gestione manuale. Cioè su carta così, settecentesca, ottocentesca. Io penso che forse nel tanto vituperato Regno delle Due Sicilie le cose andavano anche meglio. Nessuna, nonostante i grossi impegni finanziari delle gestioni precedenti, dell'informatizzazione dell'azienda, il sistema informatico non ha mai funzionato in questo settore, e io ho avviato e mi auguro che stia procedendo l'informatizzazione del sistema dei pagamenti, perché soltanto la trasparenza e la chiarezza può accelerare, non è soltanto un problema finanziario. Sì. No, ma è chiaro, è un problema anche di organizzazione, di informatizzazione, soprattutto questo. Allora, prima di andare un attimo in pubblicità, Davide Cervellin, le chiedo questo, raccontando queste storie, io oggi volutamente ho voluto raccontare queste vicende, tra poco ci saranno anche gli ascoltatori, nel giorno in cui la politica sembra sempre più, no, come dire, Cervellin, impantanata, chissà se... Impantanata come è impantanato il paese, è esatto, il esatto, paese esatto. Degradato. Ecco, lei come mi interessa il suo parere, il parere da imprenditore, di quello che sta succedendo a livello politico, al di là delle considerazioni di parte, ma voglio dire, come la vive lei da uno che dal mattino alla sera deve rappresenta una categoria che deve cercare di far quadrare i conti e lavorare quello che succede a livello politico a Roma? Guarda, io non ho votato Grillo, ma credo che Grillo abbia ragione. Abbia ragione perché con tutte le mediazioni, le promesse che ci siamo sentiti fare con la governabilità, con il governo tecnico eccetera, con questa idea di semplificazione, di sburocratizzazione, di attenzione al lavoro, ecco, abbiamo peggiorato sempre di più, in questi anni abbiamo peggiorato sempre di più, quindi lo Stato va rifondato, viviamo veramente in una condizione di merda, cioè lo Stato va rifondato, o diventiamo anarchici o fuggiamo all'estero. Io la scorsa settimana dicevo ero in Polonia, che non è uno dei paesi più avanzati del G8, del G7 e così via, beh insomma lì le forniture al sistema sanitario le fanno su un budget ben definito che c'è, quindi quando la cassa è piena, dei è soldi piena. E quando danno lo strumento viene immediatamente pagato e poi consegnato lo strumento, cioè addirittura l'azienda riceve i soldi è prima contestuale, di consegnare lo contestuale in il Polonia, pagamento in Polonia, in Polonia ecco, ecco facciamo così, fermiamoci 5 minuti poi ripartiamo, ci sono anche tanti ascoltatori ovviamente, immagino anche tante storie simili a quelle di Davide Cervellin. 800 24 00 24, insieme a Davide Cervellin ricordiamo c'è il generale Maurizio Scoppa che fino al 31 luglio ha guidato come commissario straordinario la ASL 1 di Napoli, ci racconterà anche come si possono concretamente, oltre all'informatizzazione, l'organizzazione, ridurre degli sprechi che lui ha visto appena si è insediato, come dire, affitti pagati, sedi usate così a caso, sprechi veramente pratici che... fanno pensare che come sempre quando l'atteggiamento per qualcuno, siccome sono cose della pubblica amministrazione, sono di tutti e quindi di nessuno, e lì via con gli sprechi. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:34 minuti, mentre la politica cerca di capire se qualcosa si troverà per uscire da questo tunnel in cui siamo un po' impantanati con la formazione di un nuovo governo. Noi oggi vogliamo raccontare una storia di storie di paese reale. Con noi c'è Davide Cervellin, imprenditore che ha fondato la Tiflo System. C'è il generale Maurizio Scoppa che ha guidato da commissario straordinario la ASL 1 di Napoli. C'è un altro ospite che presento tra poco, prima però generale Scoppa, ci faccia capire, perché io avevo letto in alcuni articoli che anche insomma il contesto è stato un contesto difficile nel dovere insegnare anche a molti dipendenti della pubblica amministrazione, questo avviene come anche nelle aziende private, ma qualcuno dice nel pubblico forse di più, al dovere del lavorare in maniera un po' più serrata, in maniera un po' più, come dire, un po' più convinta, o no generale? Ma è soprattutto questo il problema che io credo caratterizzi tutta la pubblica amministrazione, non solo la parte sanitaria, è quello di riattivare un meccanismo di controlli che prima si è evoluto, poi scomparso del tutto, per cui ognuno fa quello che crede e non risponde delle cattive gestioni che produce. Se si cominciasse abbandonando, per troppo tempo si è parlato in vano di meritocrazia, ma più semplicemente dando a ciascuno il suo secondo un precetto del diritto romano, forse ai vertici avremmo funzionari più coscienti, consapevoli e preparati, e probabilmente tutti i dipendenti lavorerebbero in maniera più efficiente ed efficace. Fatta questa premessa, e effettivamente mi sono reso conto in questa mia breve esperienza che è possibile farlo anche nelle situazioni più degradate. basta cominciare a motivare, ad incentivare, A motivare. E la risposta c'è. La risposta c'è. Quindi lei dice anche nelle situazioni più difficili, magari in cui si è trovato con 2 milioni di euro di pregresso appena arrivato, però si può fare qualcosa, cioè c'è possibilità ovunque di poter operare in maniera efficiente. Si può fare e bisogna cambiare totalmente l'ottica, non è più quella di continuare a tendere la mano verso uno Stato che dovrebbe sempre rifondere qualcosa per pareggiare i debiti accumulati, ma cominciare a rimboccarsi le maniche e fare della buona amministrazione per sprecare di meno e utilizzare meglio i fondi. Allora, tra l'altro anche su Twitter scrive, per esempio sul mio profilo Twitter Alino Milan, mi scrive una piccola cooperativa sociale di Padova che attende 26.000 euro dal 2006, ma ce ne sono tante di storie così. Io voglio salutare Paolo Landolfo, buongiorno e benvenuto Landolfo. Buongiorno, buongiorno. Lei è amministratore delegato di Prologic e Interlogic, che sono società che si occupano di che? Di informatica, e sono ormai quasi 20 anni che ci occupiamo di informatica nella pubblica amministrazione. Lei da imprenditore ha raccontato ieri alla stampa di come si è trovato in una situazione di difficoltà, per quali motivi? I soliti, cioè lavoravate con la regione Piemonte ma i pagamenti erano bloccati. Assolutamente, ormai come dicevo sono 20 anni che lavoro per la pubblica amministrazione, per la regione attraverso il consorzio CSI Piemonte, direttamente per i comuni, per le ASL. Ad un certo punto la regione l'anno scorso ha bloccato i pagamenti ad agosto, mentre appunto arrivavano i pagamenti, erano abbastanza regolari con i ritardi fisiologici all'italiana, sostanzialmente ad agosto del 2012 bloccati. Già dire i ritardi fisiologici all'italiana, no? Insomma, fa capire, cioè i ritardi, viene dato per scontato una cosa, sì, i ritardi fisiologici all'italiana. Noi imprenditori ormai siamo masochisti, cioè nel senso che quando ormai le regole sono violate, però tutto sommato sono continuative, ormai noi ci facciamo dei calli. Anche se i pagamenti arrivavano a 90 o addirittura di ritardo, quindi 90 più 90 è 180 giorni, 210, per noi era comunque una buona cosa, dice, vabbè, una cosa buona, vabbè, perché almeno solo 90 giorni di ritardo stavolta. Sì, esatto. E poi vi siete trovati in una situazione, immagino, di difficoltà invece. Assolutamente, a quel punto niente, alla fine dell'anno ci siamo trovati in una situazione davvero drammatica. Come me, ovviamente, decine di imprese del territorio piemontese che vantavano crediti. E quindi abbiamo dovuto chiedere ulteriori finanziamenti dalle banche. Certo, dalle banche. Questa è la solita trafila, le banche che danno, le banche che non danno, insomma la storia che conosciamo. Voi vi siete trovati in una situazione, mi pare paradossale, di avere vinto un appalto per cui a quel punto non potevate neanche più rinunciare, eravate obbligati a fornire il materiale. Esatto, una serie di commesse, una serie di appalti per cui non potevamo assolutamente interrompere le forniture, assolutamente. Sì, per cui si entra in questo anche per responsabilità verso le funzioni pubbliche della, no, ma è chiaro. Dello Stato, no, ma è una, devo dire, è una doppia fregatura, non so, cervellina, anche questa idea per cui appunto Landolfo ci racconta, lui hanno vinto degli appalti, per cui uno è obbligato a dare delle forniture sapendo che però i soldi non li prenderà. Funzione da l'ASL di Salerno, tra l'altro approfitto della radio, faccio un appello, quello che diceva prima il generale, a questi dipendenti pubblici, è più di un anno che ricerco la dottoressa Fiocco, capo ragioneria dell'ASL di Salerno, che non si fa mai trovare, e che mi ha spedito una lettera datata 22 marzo dicendo che le fatture vanno inviate non più a un'unità, a un ufficio centrale dove venivano processate per la liquidazione, ma ai distretti, esattamente il contrario di quello che ci avevano chiesto 2 anni fa. E peccato che questa lettera inviata il 22 marzo dalla ragioneria di Salerno, dalla direzione della ragioneria, reciti che il provvedimento ha valore del 1 gennaio. C'è il cellulare, cervellino, un attimo, sistemiamo il collegamento telefonico perché c'è il cellulare che ci sta un pochino abbandonando. Sentiamo un ascoltatore, Daniele da Firenze, che ci ha chiamato all'800 24 0024. Sì, buongiorno. Senta, no, hanno già risposto un po' tutti praticamente a quello che... Io però l'unica cosa è che devo chiudere l'azienda proprio per queste cose qua. E nonostante tutto che l'azienda andava abbastanza bene, eravamo in tre, e comunque purtroppo proprio per i pagamenti in ritardo dovuti all'amministrazione... Cioè lei deve dovete chiudere l'azienda? Io devo chiudere l'azienda perché ovviamente le tasse sono quello che sono, perché ovviamente sono più le cose che paghiamo che quello che incassiamo. Poi ovviamente i ritardi di pagamenti ovviamente facilitano tutto ciò, ma non sono l'unico in Italia che purtroppo deve chiudere l'impresa. E in più ho preso anche una multa di 500 euro dalla Regione Toscana, perché ovviamente io mi ero rifiutato di dare delle forniture, piccole forniture noi facevamo per le imprese pubbliche, ecco. La cosa ridicola, a parte hanno risposto tutti, ho già sentito tanto l'intervento dei vari imprenditori in Italia, che ovviamente sono nella mia stessa condizione, mi auguro comunque che venga risolto tutto ciò. Chiudo perché non ce la faccio più, veramente, perché mi sembra di essere, ci siano gli strozzini sempre, comunque dietro a tutto ciò che riguarda l'impresa, ecco, perché non, cioè, qui il lavoro è diventato una cosa secondaria. Seppure lei dice le forniture c'erano, le commesse c'erano. Perché poi sei obbligato, come diceva appunto il signore prima, sei obbligato a dargli, perché ovviamente chi lavora nella sanità, chi lavora nei comuni, cioè come fai a non dargli? Anche perché poi dopo non possono lavorare, cioè gliele dai, ti fidi anche, ma non si può aspettare un anno o due anni. Io credo sia l'unico paese al mondo che ci vuole tutto questo tempo per riscuotere questi insomma soldi. Credo, adesso non so se al mondo ci sono però delle classifiche, credo, se ci sono delle classifiche, non ho detto che lo è. No, ma ci sono delle classifiche, siamo tra i peggiori pagatori come tempi di ritardo in Europa, ecco, poi però la almeno cosa che mi fa accapponare la pelle, il commissario che è intervenuto prima, dice io mi auguro che si risolva. Però qui è inutile fare commissari su commissari, il commissario che controlla il commissario, il controllore del controllore. Qui ci vuole la testa, perché se io mi dico, dice speriamo, io faccio una linea di informatizzazione, speriamo che funzioni, ma se sei un commissario, se sei uno che controlla, devi controllare la mattina all'otto, devi essere davanti ma guardi, la sta ascoltando il generale Scoppa. Il generale Scoppa vuole rispondere all'ascoltatore imprenditore di Firenze che dice ho dovuto chiudere, dovrò chiudere azienda per questi ritardi. Sì, questi ritardi, detto, questa ho già detto prima che mi sono fatto carico personalmente di risolvere i singoli casi più disperati, ma la mia azione commissariale non è stata ispirata alla speranza, io non ho dato delle speranze, ho dato delle certezze per le cose che nel breve periodo di un anno, di due mesi di esercizi finanziari ho potuto fare. Io ho avviato ma una gestione amministrativa informatizzata non si realizza in 12 mesi quando in 20 anni prima non si è riuscita a fare. È stata avviata, però non è che ho lasciato un messaggio di speranza generale, siccome ho raccolto alcune testimonianze che furono scritte anche in un articolo del Corriere, però gliele vorrei esporre per capire se alcune sono vere, quante sconfinano nel colore, siccome so che la sede dell'ASL 1 era vicino a dei terremotati, questo è vero? Sì, dunque la sede nella quale io ho trasferito la direzione generale nei primi 10 giorni di commissariamento, togliendo da un edificio del centro direzionale dove l'azienda pagava 800.000 euro all'anno, d'affitto, e trasferendo in questa struttura vuota, dove c'erano delle voti parzialmente tuttora occupati, nonostante una sentenza di sfratto della magistratura da me attivata, da cosiddetti terremotati del bradisisma di Pozzuoli. Sì. Cioè, avete capito, no, per dire, cari ascoltatori, il generale Scoppa è arrivato e la regione Campania pagava 800.000 euro d'affitto per le sedi dell'ASL 1 quando aveva in periferia, credo di Napoli, adesso non sono pratico, un edificio a disposizione. In 10 giorni il generale Scoppa ha detto rescindere subito il contratto d'affitto da 800.000 euro della regione Campania, per cui ripaghiamo l'ASL Napoli 800.000 e trasferiamo tutto nell'edificio della regione, quindi a costo zero, e quindi già subito 800.000 euro risparmiati in 10 giorni con una firma, no, generale, un provvedimento in 10 giorni. Un provvedimento che rientrava nella mia competenza. Cioè 10 giorni ci ha messo, e verrebbe a da costo dire zero. A costo zero, certo, perché e si è trovato tra l'altro in questo edificio condiviso anche con alcuni terremotati. Allora, io ripensando, cioè, in questi 30 secondi del traffico, ma generale Scopa, a me sta montando una rabbia. Com'è possibile che lei sia arrivato a dire in 10 giorni con una firma faccio risparmiare 800.000 euro all'anno, e perché non ci aveva pensato nessuno prima? Il problema non è che non ci avesse pensato nessuno, ci avevano pensato, tanto è vero che c'era questo provvedimento già adottato da mesi, ma nessuno l'aveva attuato. Ecco. Ecco la differenza fra il dire e il fare. No, appunto, e tra l'altro, ecco, è vero che lei arrivò in questo edificio quando ci fu il trasferimento insieme a questi terremotati, qualcuno si presentò dicendo buongiorno generale, e lei disse io non l'ho neanche fatto entrare nel mio ufficio. Sì, perché immediatamente, come nel costume un po' colorito napoletano, si era autoqualificato come il presidente del comitato dei terremotati, al quale io non ho dato nessun riconoscimento, e quindi ho affidato al mio ufficio legale invece e alle forze dell'ordine la gestione della cosa, che cioè, si è risolta con una sentenza di sfratto. Le ha messe alla porta, però stanno ancora lì, anche perché se non sbaglio l'ASL, cioè l'edificio, gli paga luce, acqua, gas, tutto. Sì, io ho attivato anche le procedure di distacco, ma lei sa che non è possibile farlo, ma almeno ho informato gli enti fornitori che... Ci ha provato. Sì. Senta, generale, lei è un uomo dello Stato, ma in tutti questi anche mesi, in questa esperienza, ma di fronte a questo, insomma, la fedeltà allo Stato, l'incrollabile fiducia nello Stato non viene mai incrinata? Indubbiamente in situazioni come queste viene messa a dura prova. Io mi sento tuttora uomo dello Stato, nello Stato nel senso, ecco, quello è stata evocata la Costituzione, nel senso indicato dalla nostra Costituzione. Distingo dalla pubblica amministrazione, che credo che sia stata permeata più fortemente, per ricollegarmi al suo discorso iniziale, della politica. Oggi credo che peggio della politica sia la pubblica amministrazione, quindi dopo che si sarà, se finalmente si arriverà a un riordino della situazione politica, bisognerà porre mano con decisione e con determinazione a un riordino efficace di tutta la pubblica amministrazione. Sentiamo un'ascoltatrice, Maurizia, dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io volevo portare una testimonianza riguardo alla disorganizzazione totale delle ASL, in senso contrario a quello di quello che è stato detto fino adesso. Io lavoro per un'azienda, un'impresa di costruzioni, che spesso si avvale dei servizi della ASL. Molto in senso contrario, Maurizio. Il generale Scoppa è andato a gestire una situazione di disastro. Quindi di disastro, sì, ma non in funzione del credito che devo ricevere, ma di un debito che dovrei pagare. Nel senso che l'azienda per la quale lavoro si avvale spesso di servizi ASL per quanto riguarda prove tecniche, analisi di laboratorio per calcestruzzi, eccetera, eccetera, per la quale emette naturalmente una fattura. Sì. Sono testimone del fatto che queste fatture, che l'azienda per la quale lavoro da tempo non paga, non vengono mai sollecitate. Cioè, quindi questa è la situazione paradossalmente opposta, in cui lo Stato dovrebbe avere soldi dall'azienda per cui lavora, ma lo Stato gliene frega. Esatto. Che è un po' l'emblema del pressapochismo e della mancata organizzazione che c'è, evidentemente. Cioè, un disastro assoluto. Infatti, quando il generale parla di riorganizzazione, ha perfettamente ragione, ma la riorganizzazione deve partire veramente dalla base, perché il sollecitare una fattura lo fa qualsiasi impiegato di di basso livello, certo, prendendo il telefono, certo, mandando una comunicazione. Lo fa qualsiasi, per esempio, imprenditore che deve ricevere soldi. Ma ritorno al principio, lei, Maurizia, non ha l'idea che siccome quell'impiegato che deve fare il sollecito lavora per lo Stato e quindi la cosa è pubblica e quindi di nessuno non gliene frega niente, non gliene frega niente. Esattamente, ed è una catena a salire di menefreghismo totale. È chiaro. Grazie Maurizio. Allora, Davide Cervellini, abbiamo recuperato la linea. Insomma, generale Scoppa ci ha detto, per esempio, io in 10 giorni ho fatto quello che potevano fare tutti gli altri, l'avevano fatto e però non si faceva, certo, mai. Ha ragione il generale, credo che forse la grande mancanza della politica in questi ultimi decenni è stata quella di non chiedere conto alla pubblica amministrazione, che è quella che di fatto poi governa lo Stato, no? Perché lo Stato, le istituzioni sono fatte prevalentemente dalla pubblica amministrazione, la politica dagli indirizzi. Ecco, non è stato chiesto alla pubblica amministrazione di rendere conto delle cose che non fanno. E noi imprenditori, mi creda, insomma, voglio dire, poi lei quando va all'Agenzia delle Entrate, Equitalia, si sente fare gli sberleffi, guardi che noi chiudiamo se non riusciamo a pagare, vabbè, chiudete. No, allora voglio dire, questo è uno Stato. Beh, addirittura così, cioè si sente dire così. Ah, assolutamente così, assolutamente così. E poi guardi, anche le cose più banali, cioè io dico una circolare dove si dice tu pubblica amministrazione non puoi ordinare se non hai disposizione finanziaria, oppure un piccolo aiuto che avevamo chiesto, fare i bilanci non più per competenza ma per cassa, perché c'è un altro paradosso, come diceva l'imprenditore prima, non solo non abbiamo i soldi, ma a fine anno noi facciamo il bilancio e magari perché abbiamo emesso le fatture che non ci pagano, abbiamo degli utili e dobbiamo pagare le tasse. Chiaro. Non è tollerato neanche un minuto di ritardo, ti vengono subito gli esattori, i pignoratori, eccetera, se non hai pagato le tasse puntuale. Ecco, allora qui si dà proprio la fotografia di uno Stato che non è più Stato di diritto. A me veniva da dire, io mi occupo un po' di agricoltura, sai, io credo allo Stato di diritto solo quando taglio erba o spargo il letame, quando leggo le carte, no? Mi scusi, sa, dottor Mio, quando leggo le carte, quando mi dicono bisogna rispettare la legge, ci sono circolari che sono esattamente il contrario della circolare precedente, ci sono leggi che sono... Questa è la burocrazia, di burocrazia si muore. Io però avrei un'ultima cosa da chiedere al generale Scoppa, che è questa credo che lei l'abbia derubricata invece a episodio di colore, ma è vero addirittura che quando lei si è insediato c'era un autista, un'auto di servizio, lei per dare gli ordini, nel senso per comunicare col suo autista, siccome non voleva comunicare con lei direttamente, lei doveva chiamare la segretaria che a sua volta doveva chiamare l'autista, ma voi stavate sulla stessa macchina? Ma assolutamente, sarei veramente questo un personaggio buffo. E perché è uscita questa cosa addirittura? Ma semplicemente perché la tam-tam, l'episodio al quale io penso di poter collegare è che ero uscito da una riunione al centro direzionale di una struttura regionale e non trovando la macchina lì ho chiamato la segreteria, ho detto avvertite l'autista che io mi trovo in questo punto. Ah, vabbè, tutto qui. Niente di che. Poi non mi ha meravigliato perché insomma personaggi scomodi come me sono stati perseguitati per l'intera vita da aneddoti eccetera. Comunque io qua mi devo fermare, ringrazio davvero tutti voi, il generale Maurizio Scoppa, Davide Cervellin, presidente della Tiflo System, Paolo Landolfo, amministratore delegato di Prologic e Interlogic. Abbiamo raccontato una storia di paese, uno spaccato, che è uno spaccato molto ampio, 70 miliardi questa cifra, ricordatevela, più o meno, di euro che le imprese devono ottenere dallo Stato. L'abbiamo raccontata proprio nel giorno in cui la politica forse è uno snodo decisivo. Oggi Bersani, o oggi stasera, o domattina, fate con calma, andrà da Napolitano e si capirà che succederà. Intanto l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.